Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. E con la bici fuggiamo e chi lo sa. Si parte sul serio, dai. Partiamo alla grande, partiamo da sta. Buon pomeriggio, buona domenica, una manciata di secondi per sognare, per rivivere le emozioni delle pedalate che adesso non possiamo più dare, ma insomma prima o poi torneremo a farlo e dunque è importante mantenere anche un buon allenamento. Allora in questa puntata ascolteremo due protagonisti a loro modo del mondo della bicicletta. Partiamo con Paola Gianotti, atleta detentrice di 3 record del mondo sulle 2 ruote, scrittrice, speaker motivazionale. Buon pomeriggio Paola. Ciao Alessandra, buon pomeriggio a te. E allora Paola, 56.830 km in bici, 91 paesi, ma tu sin da subito, sin dall'inizio di questa emergenza sanitaria, hai deciso di lasciare a casa la bicicletta, ma continui ad allenarti nella tua casa di Ivrea. Sì, io mi alleno sui rulli, guarda, devo essere molto sincera, li ho sempre un po' visti come qualche cosa da fare veramente se era necessario, ma anche tutto questo inverno li avevo usati pochissimo perché comunque le giornate erano sempre belle e non avevo mai fatto quel freddo esagerato, quindi uscivo anche con 3 o 4 gradi, anche se magari era super nuvoloso, quasi a rischio pioggia, piuttosto di non stare in casa, perché per me, come sai, la bicicletta rappresenta la libertà ed era il modo, e quindi il modo migliore uscire fuori. Però in questi giorni dove non ci sono altre possibilità, ho scoperto davvero un mondo e forse sono anche felice di averlo scoperto, perché mi sto allenando comunque tantissimo. Ho la fortuna effettivamente di avere dei rulli a casa che mi permettono di pedalare bene e di fare tantissimi allenamenti, anche allenamenti specifici. Pensa che domenica scorsa ho fatto 100 km in un'unica sessione, probabilmente li ripeterò anche oggi pomeriggio. E mi alleno tre ore e mezza, o se no un'ora e mezza, e faccio anche 1000-2000 metri di dislivello nella stessa sessione. Ma la cosa più bella è che ormai la tecnologia ci aiuta veramente tantissimo e ci permette anche di ritrovarci sui pedali con gli stessi amici con cui pedalo fuori, e questo ti fa sentire comunque uniti in un momento così difficile. Quindi in questo momento ringrazio veramente la tecnologia per quello che ci permette di fare, perché ci permette di ripercorrere dei percorsi reali sui rulli, e ci permette anche di farlo con gli stessi amici dei pedali con cui normalmente si esce fuori. Quindi ecco, con i tuoi amici vi date un appuntamento per pedalare insieme. Bravissima, ci diamo appuntamento, ci sono delle app fantastiche, ci sono tantissimi eventi, e quindi uno partecipa a un tour dove si ricrea tutto un percorso, che appunto questi percorsi lunghi sono magari 100 km, 1000 metri di livello. Si parte la mattina piuttosto che il pomeriggio, ci si dà appuntamento, si ritrova, e poi è bello perché ci si aspetta, si fatica insieme, ci si vede sullo schermo, si può chattare nel frattempo, e quindi è veramente come essere in compagnia, e l'allenamento passa molto più velocemente. Quindi la tecnologia veramente ci sta dando un grande aiuto e ci permette soprattutto di continuare ad allenarci in tranquillità a casa, senza uscire, che è la cosa più importante per riuscire a limitare tutto quello che sta succedendo, ma di continuare comunque a mantenere la forma fisica, perché ci si allena sia di fiato che di potenza, e quindi si allenano entrambe le componenti. E per il resto come passi la giornata? E per il resto è difficile perché sto lavorando tantissimo da casa e sto cercando di reinventarmi dei lavori che non ci sono più, perché chiaramente avevo tutta una serie di eventi come speaker motivazionali in grandissime aziende, soprattutto in questi mesi, che ovviamente per forza di cose sono saltati, e poi stavo preparando il Giro d'Italia, che era per me l'evento clou di questo quest'anno ci avevo messo cuore e anima, perché quest'anno era veramente focalizzato, come già ti avevo raccontato, sul rispetto del ciclista sulla strada, e quindi avevo contattato oltre 400 comuni lungo tutto il percorso del giro per mettere proprio i cartelli del rispetto del ciclista. E in questo momento mi trovo un po' in un labirinto senza sapere bene una direzione, ma sto cercando di capire come reinventare questo momento, quindi produco tantissimi contenuti, soprattutto a livello di coaching, perché sono una coach professionista e quindi in questo momento sto spostando più l'attenzione su quello. Produco tanti contenuti e tanti materiali, faccio sessioni di coaching da casa via Skype e cerco di pensare a un futuro diverso, dove sono certa che veramente questo periodo sarà solo un momento di passaggio, ma tutti ripartiremo più forti ancora di prima. Una situazione, Paola, che ci ha preso tutti all'improvviso, ma dalla quale possiamo, anzi dobbiamo trarre comunque un insegnamento, se vuoi, no? Ci può insegnare comunque qualcosa. Proprio in questi giorni riflettevo sul fatto di quanto tutto sia volatile, di quanto da una parte ognuno pensa di avere la certezza di tutto e poi da un momento all'altro, senza giustificazione, invece tutto questo sparisce. E questo mi riporta anche un po' all'incidente che ho avuto durante il Giro del Mondo in bicicletta, perché se ti ricordi io dopo 15.000 chilometri percorsi, quindi dopo tutta la fatica fatta nella progettazione, a un certo punto mi investe una macchina rompendomi la quinta vertebra cervicale e nel giro veramente di un secondo tutto crolla. E in quel momento non me lo giustificavo, non riuscivo a darmi nessuna spiegazione di quello che stesse succedendo e non lo volevo assolutamente accettare, perché era inaccettabile. E quindi quello che sta succedendo adesso mi riporta molto a quell'incidente. E ad oggi però quell'incidente mi ha reso fortissimo, io sono ripartita ancora più forte, ho comunque battuto il record, e per me quell'incidente è stato veramente un forte cambiamento nella mia vita, che mi ha fatto capire che poi, se vogliamo veramente ottenere le cose, le otteniamo nonostante una macchina ci investa travolgendoci. E quindi probabilmente anche questo momento è da vedere così. Sono certa che prima o poi riusciremo a vedere come a questo momento, come un momento che ci ha fatto capire tante cose, ci fa vedere anche, come hai detto tu, le cose sotto un punto di vista diverso, e ci fa imparare a essere ancora più flessibili e più pronti al cambiamento, perché non si sa mai cosa può succedere nella vita e dobbiamo essere pronti a tutto, e più siamo pronti più siamo forti. Paola, allora grazie mille, ci risentiamo presto, ciao, buona giornata. Grazie a te Alessandra, è sempre un grande piacere, e un grande abbraccio a tutti i ciclisti e non, e a chi si sta allenando da casa. 75.000 chilometri, 66 paesi attraversati, l'ultimo la Patagonia, avventuriero, ciclo, viaggiatore estremo, anche Dino Lanzaretti si è da subito fermato appendendo la bici al chiodo per un po', e l'abbiamo raggiunto telefonicamente nella sua casa in mezzo alla natura. Buon pomeriggio Dino, dove ti trovi esattamente? Buon pomeriggio, fortunatamente io vivo in un paesino a ridosso delle piccole Dolomiti in provincia di Vicenza. Vivo in una piccola valle, molto scomoda d'inverno perché non c'ho riscaldamento, devo spaccare legna eccetera, ma in questo momento è il posto migliore, insomma, per passare questa quarantena. Si chiama Valle dell'Orco, non la troverete mai su Google. Come trascorri le tue giornate? Ma ci ho avuto qualche giorno per sconfiggere il jet lag, no? Quindi mi sono preso un po' di tempo per me. Poi adesso che ci sono le belle giornate sto cominciando appunto a tagliare legna per il prossimo inverno e a disboscare dai rovi il bosco, che vivendo in mezzo alla natura, se ti distrai un attimo la natura si riprende tutto quello che hai faticosamente creato. Poi leggo, grazie al cielo leggo, e a me pare è brutto dirlo, ma avere tutto questo tempo a disposizione pare un regalo, no? E mi sto sparando dei meravigliosi film italiani di Alberto Sordi piuttosto che di Fellini, sto leggendo dei classici, mi sto massacrando di tutorial su YouTube, adesso stavo guardando un tutorial su come fare una diretta a Facebook, cioè sto imparando cose, e quindi sto utilizzando questo tempo qua come fosse stato un regalo donato, anche per distogliere l'attenzione dalla causa principale di questo tempo che abbiamo gratis, che è questa incredibile tragedia che ci sta toccando da vivere. Tu hai detto, hai scritto che il viaggio comincia ben prima di pedalare. Hai già cominciato a farlo, questo viaggio? Ma guarda, io dovevo aprire la mia agenzia di viaggi la settimana scorsa e non è il caso di mettermi a promuovere viaggi di qua e di là, ovviamente, però adesso è il momento migliore per cominciare a pensarne altri, quindi sicuramente noi torneremo a viaggiare e io ho una grandissima speranza che torneremo a viaggiare di più, perché la nostra libertà è stata toccata. Molti di noi si sono resi conto che, cavolo, potrebbe essere così per sempre, oppure non ho mai sfruttato questa grandissima opportunità che ho di muovermi, di viaggiare. Quindi adesso io sto su Google Maps, sto cercando viaggi, sto rivalutando di cominciare a pedalare in Italia, perché molto probabilmente le persone dopo questo saranno un po' più titubanti nel muoversi verso altri paesi, ma sarà solo momentaneo. E quindi sto guardando l'Abruzzo piuttosto che il Molise, la Sicilia, paesi che non ho mai visitato, perché fino adesso mi sono infrattato tra le Ande piuttosto che l'Himalaya o in Siberia. Quindi adesso sto osservando il nostro meraviglioso paese e cercando qualche sentiero, qualche bel posto da mettere la tenda e continuo a sognare, continuo a stare sul pezzo, sennò impazzirei. Ecco, ma a parte spaccare la legna, ti alleni anche sui rulli? No. I rulli, vedo i miei amici in streaming che fanno tutte queste gare, questi challenge, ma io non sono un ciclista, a me non me ne è mai fregato niente di allenarmi. Se io sto fermo 2 settimane, non me ne frega niente, mi faccio il pane, mi ammazzo di dolci perché ho le galline che continuano a fare uova, ma non sono mai stato un atleta, quindi io non sto vivendo la mancanza di fatica fisica sui rulli. Vivo la mancanza di paesaggi, di contatto con le persone, ma non essendo un ciclista, frega niente, non li ho mai comprati, non credo neanche li comprerò mai, perché ho pedalato a temperature rigide, ho pedalato sotto la pioggia, ho pedalato, se mi viene voglia di pedalare, quando mi è concesso vado a prescindere. E adesso taglierò l'erba, quindi fra un po' adesso prendo in mano il digespugliatore e di sport fisico ne farò alla grande, quindi rulli purtroppo no. Bene, allora Dino, ti lasciamo ai tuoi lavori casalinghi e al prossimo viaggio. Grazie a voi, ciao. Per fortuna che ho la bicicletta, almeno mi allontano un po' dall'autostrada del sole o dal raccordo anulare o dalla fila nel metro. E noi ci fermiamo qui, vi lasciamo immaginare, solo sognare qualche lunga pedalata. Buona bici, per ora solo virtuale a tutti.